Andiamo a collegarci con un compagno che ci parlerà di un'iniziativa che ci sarà domani a partire dal pomeriggio al Centro Sociale Forte Prenestina. Abbiamo già sentito più volte lo spot, però volevamo, insomma, dalla viva voce, dalla tua viva voce, che ci raccontassi un po' che succederà domani. Buongiorno, Allora, intanto buongiorno a innanzitutto. tutti e tutte. Sì, molto velocemente, cioè domani sera al Forte ci sarà un'iniziativa insieme a un compagno palestinese che si trova in Italia, è arrivato in Italia appunto per passare un mese qua e cercare di appunto raccontare un po' quali sono le esperienze di lotta che si vivono quotidianamente all'interno della West Bank. In particolare cercheremo di parlare della situazione, cercheremo di dare che ne so, magari un rapido aggiornamento rispetto a quella che è la situazione oggi in Palestina, visto che è il contesto dove le cose cambiano giorno dopo giorno. Cercheremo di capire come la pratica dell'espansione delle colonie continua a sottrarre terra quotidianamente, a prescindere che poi si dica che la costruzione di insediamenti è stata interrotta o meno. Cercheremo di capire qual è appunto la difficoltà sempre più forte che si trova all'interno dei campi profughi, in particolare in quello di Haida, nella zona di Betlemme, che oltre appunto a vivere il disagio di quelli che sono di quella che è la vita dei profughi da più di 50 anni, si vive inoltre la difficoltà di quello che è il muro e quindi il muro dell'apartheid che viene costruito proprio a ridosso delle case. Cercheremo appunto di capire che senso ha parlare qua di Palestina oggi e capire in che modo articolare il discorso del boicottaggio, che è una delle pratiche che a livello internazionale sta cercando di mettere in discussione le politiche razziste del governo israeliano. Cercheremo anche in qualche modo di capire come poter dare sostegno alle varie esperienze di lotta che si costruiscono. Quindi sarà un'iniziativa nel quale ci sarà un momento di dibattito anche appunto insieme a Bilal, insieme a tutte le realtà e chi sarà presente per capire qual è la situazione, per affrontare queste questioni e capire quali altre appunto sono rilevanti. E ci saranno anche delle proiezioni, guarderemo un video dove si racconta un pochino la storia del campo di Haida attraverso l'esperienza di Bilal, da lì poi capire appunto quali sono i possibili percorsi da mettere in piedi. Quindi penso che nell'arco della serata sia stato organizzato sia un aperitivo verso le 7 con delle proiezioni e successivamente la cena. Tutto il ricavato, diciamo, dell'aperitivo e una parte dell'incasso della cena andrà a sostenere il progetto del centro di Amal al-Mustaqbal, un centro di aggregazione e di prima educazione per i bambini del campo che non trovano altre possibilità se non quelle di stare in luoghi appunto magari portati avanti dall'auto-organizzazione, quindi piccoli centri che con l'aiuto di volontari e volontarie si organizzano e danno appunto dei piccoli spazi per costruire possibilità diverse all'interno del campo, appunto. Quindi non so, insomma, questo. Poi se vuoi aggiungere qualcosa tu, Sì. rispetto a. Io non so se avete già detto qualcosa prima, non ero con lì in No, sentiero. abbiamo iniziato adesso. Va bene, noi ti ringraziamo, ti lasciamo, insomma, a quello che